silenzio di mille parole che non cercano più sensi in questo giro nel bicchiere. Nell'angoscia di mille paure che si trovano nel letto di strada a fare l'amore. Nel silenzio ti ci sei trovata con le macchie scure e non le puoi parlare. E poi ripeti che tu sei cambiata, che la vita è sola e non mi devi niente. Parto Nicaragua e non tornerò più. Salgo sopra una barca per non scendere mai. Parto Nicaragua per non pensarti più. Salgo sopra una barca per non scendere. Sono stanco di vivere nel tempo libero e sopravvivere per ingannare il tempo. Scannarmi nel carisma stranato che non serve un cazzo, ma se resti fuori vive a stento. Sono stanco di fare la cosa giusta anche quando ti fa male, non importa niente. La coerenza è sfruttare un tuo diritto, ma se non militi al partito tu sei l'ombra di un compagno. Parto Nicaragua e non tornerò più. Salgo sopra. Che senso dare l'anima in un test se non è abbastanza allegro per la festa patronale? Egocentrico, invadente, esibizionista, amici di una vita. Scusa, allora eravamo distratti. E sorridere, chiamare, perché è giusto è dimostrare con te stesso che sei giusto, ma fa male. Se sei triste sei te stesso, ma sorridi, che se piangi sei scorretto anche volgare. Parto Nicaragua per non pensarti più. Salgo sopra una barca per non scendere. Rubino delle ragion va per la foresta ed ognuno con l'altro ride e scherza come vuoi. Sono felice del successo delle loro gesta. Urca urca tirulero, oggi splende il sole. Non pensavano ai rischi che correvano nel gettarsi in acqua per trovare il ristoro. E che subito lo sceriffo e se stupidi scagnozzi erano indecisi a farli fuori. Robin Hood e Little John corrono come frecce, saltano siepi ed alberi e spiccano così il volo. Devono salvarsi e alla fine ci riescono. Urca urca tirulero, oggi splende il sole. Urca urca tirulero, oggi splende il sole. lei l'ultimo pezzo. Vaffanculo, ma che parla lei? Ti vogliamo qui che ce la canti?